Allora, torniamo in diretta, sono le 12:10, avevamo detto nel sommario che ci sarebbe anche stato spazio per lanciare l'appuntamento di questo pomeriggio, l'abbiamo già fatto leggendo il comunicato, ma insomma è opportuno anche informare chi ci ascolta dei contenuti di questa assemblea prevista per oggi a Sociologia, la facoltà di Sociologia, che insomma si trova in sede distaccata rispetto alla città universitaria, via Salaria 113, aula portico occupata alle ore 17, assemblea chiamata per parlare dell'appuntamento del 25 febbraio, corteo nazionale NOTAV, quindi il movimento dei compagni e delle compagne a livello nazionale ritorna in Val di Susa, ritorna soprattutto per esprimere solidarietà, vicinanza e complicità con chi è stato arrestato. Chiaramente la lotta della valle non demorde, gli appuntamenti che si sono seguiti nelle ultime due settimane sono stati moltissimi, a testimonianza di quanto insomma c'è un interesse a mantenere viva l'attenzione sugli arresti, la repressione in generale, su tutta la questione. Noi siamo al telefono con Alessia di Sociologia, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. E intanto, insomma, Alessia, è interessante il fatto che l'università torna a essere un punto di riferimento assembleare per tutti e tutte, insomma, di tanto in tanto sì. Succede, è un momento anche particolare in cui l'università sta vivendo, come dire, una sorta di ruolo più nevralgico che negli ultimi anni, che nel passato più recente, perché comunque si concentra l'attenzione riguardo le vertenze dei lavoratori, proseguono gli appuntamenti di vari ambiti di discussione che cercano insomma di approfondire e di costruire percorsi di critiche e azione all'interno della nostra città. Questa assemblea sul movimento NOTAV per preparare il corteo del 25 ne è un'altra dimostrazione di questo. Sì, noi abbiamo chiamato questa assemblea appunto all'università come per appunto ospitare chiunque volesse parlare rispetto a quello che è successo ultimamente sugli arresti, in particolare che ci sono stati in tutta Italia a carico appunto degli attivisti NOTAV e quindi di tutti i compagni d'Italia, perché comunque sono stati colpiti da Torino fino a Palermo, passando quindi anche per Roma. L'assemblea che ci sarà oggi vuole essere sia un momento di riflessione su quello che è che appunto la repressione dei movimenti radicati che sono stati costruiti in questo paese, quindi non solo la NOTAV ma anche altri movimenti nelle varie città d'Italia, e poi fare un momento un po' concentrarci in un momento un po' più logistico, appunto come salire e partecipare alla manifestazione NOTAV. Infatti pensiamo che anche come abbiamo scritto nel comunicato, che diciamo la repressione non è altro che un'altra faccia della stessa medaglia della lotta in questo paese, perché comunque pensiamo che non ci debba essere un atteggiamento appunto vittimistico, ma appunto pensare che nel momento in cui c'è chi si rivolta per la difesa del proprio territorio piuttosto che del posto di lavoro o del diritto allo studio, conseguentemente ci sono atti appunto di repressioni, di repressione, quindi arresti e quant'altro. Quindi appunto invitiamo tutti alla riflessione su questo e poi quindi all'assemblea di oggi a Sociologia alle 5. Niente. D'accordo. Beh sì, insomma, chiaramente quello della repressione resta un tema centrale, poi affiancato alla lotta no TAV, diciamo che acquisisce un significato molto importante, perché comunque la valle ha saputo insegnare quanto un atteggiamento compatto e unito anche di fronte alle manovre divisorie, insomma, può soltanto che far bene al movimento e alla sua tenuta. C'è da dire, insomma, che la fase attuale non risparmia niente a nessuno, e infatti, insomma, una recrudescenza repressiva è chiaro che la si è palesata negli ultimi mesi. Volano sempre di più i manganelli all'indirizzo delle categorie più disparate e più diverse. Nei confronti degli studenti non sono mai mancate, ma ultimamente, insomma, comunque varie sono stati gli episodi in giro per l'Italia, e quindi il caso anche di, come dire, attrezzarsi per far fronte alla repressione. Voi scrivete giustamente: la repressione è anche sintomo di paura. Beh, è vero, insomma, che laddove si alza la testa, inevitabilmente il potere cerca di fartela riabbassare, quindi è lecito e assolutamente giusto, insomma, mettere in luce questo nesso. Fatto sta che, insomma, oggigiorno quanto mai, forse più di prima, insomma, è indispensabile anche attrezzarsi e fare in modo, insomma, che quando la repressione agisce si abbia la possibilità comunque di mantenere, come dire, una certa agilità di risposta, perché altrimenti, certo, si finisce chiusi, insomma, in questa spirale, no? Sì, certo, bisogna rispondere e rimanere sempre uniti in questo. Non dobbiamo, appunto, permettere che gli stessi media, che è una cosa che non abbiamo scritto sul comunicato, però pensiamo che debba uscire fuori anche dall'assemblea di oggi, è questo, che una cosa che ci interessa è, appunto, come i media usano i giornali, sia la carta stampata che i telegiornali, usano comunque i momenti repressivi, diciamo così, per spaccare in qualche modo le persone che stanno all'interno dei movimenti, o in questo caso la Valsusa, o di influenzare l'opinione pubblica facendo una differenza tra buoni e cattivi. Le stesse dichiarazioni di Caselli sono state che sono stati arrestati, appunto, non si vuole arrestare il movimento no TAV, ma delle persone che hanno fatto dei particolari, sono state incriminate, appunto, di particolari reati, quindi è sempre questa distinzione. Quello che ci interessa sottolineare è anche questo particolare aspetto, che la repressione ha, non solo colpisce i compagni, e quindi in qualche modo va a colpire tutto il movimento, perché diciamo che le forze si diminuiscono, ma la repressione è anche un modo per influenzare l'opinione pubblica attraverso, appunto, i media. E una cosa che vogliamo ribadire è che ci dovremmo dotare, anche se già lo facciamo, ma attraverso, appunto, media alternativi come la radio, la Giunta Rossa in primis, ma anche altri siti internet come può essere InfoAuto, altri tipi di siti che trattano di controinformazione. Ci dobbiamo, appunto, dotare di tipi di narrazione che sono differenti da quelli normali, dove, appunto, vengono narrate le lotte, i momenti di piazza e i momenti, appunto, di lotta con la Valsusa, o tutti i percorsi che ci portano a delle vittorie come a delle sconfitte in questo paese, dotarci di narrazioni differenti. Poi appunto non c'è solamente l'articolo o il semplice una riproposizione di fatti, che per quanto i giornalisti possano dire appunto che può essere gli articoli sono neutri, quindi solo un riportare i fatti che accadono, in realtà non è, come sappiamo non è così. Come ha fatto appunto un nostro noto giornalista come Carlo Bonini, che riporta, che ha fatto carriera appunto sul racconto di fare il giornalista appunto del divento. E pensiamo che ci debba essere un tipo di narrazione differente, dove appunto i protagonisti delle lotte, delle manifestazioni di piazza e di tutti i percorsi che ci possono essere, ad esempio come è venuto ultimamente i lavoratori delle pulizie alla Sapienza, i protagonisti possano raccontare quello che succede. In qualche modo la manifestazione può essere la parte finale. In realtà c'è tutto un percorso che porta alla manifestazione finale, come può essere stato anche il 15 ottobre. Un percorso che è fatto non solo appunto dalla situazione in sé, ma anche da un disagio che ognuno di noi si porta dietro. Ed è anche il senso per cui vogliamo fare questa iniziativa che si chiama l'universo, che si chiama letteratura nella sociologia, per lanciare appunto un nuovo modo di narrare le cose. Cosa c'entra questo con l'assemblea di oggi? C'entra in cui appunto colleghiamo il problema della repressione a un problema anche di narrazione delle cose. E io penso che per quanto riguarda la Valsusa questo problema c'è fino a un certo punto, perché appunto gli stessi abitanti della Valsusa sono consapevoli di quello che succede, non si fanno pensare dei media, ma io penso anche al resto d'Italia, chi comunque non c'è fisicamente nella valle, quindi gli va comunicato quello che è la lotta della Valsusa, che è appunto una lotta di resistenza e di difesa del territorio. Benissimo, benissimo. Beh, sì, è chiaro, insomma, che comunque corollario indispensabile affinché, insomma, si abbia una lettura anche di ciò che facciamo, non condizionata e manipolata, insomma, dalle influenze esterne. Sappiamo quanto la propaganda dell'avversario sia forte, soprattutto su questioni così cruciali come ad esempio l'alta velocità. È indispensabile appunto averne di propri, costruire i propri istituti, anche evidentemente mediatici, i propri nodi comunicativi, anche, come dicevi tu, le proprie narrazioni. Ed è importante, insomma, che momenti pubblici come grandi manifestazioni possano comunque essere dibattuti all'interno di assemblee, momenti di discussione, di dibattito pubblico come fase preparatoria, come per l'appunto tu ricordavi. Molto spesso, insomma, invece ciò non accade, è anche abbastanza frustrante, insomma, no? E invece, ecco, per il percorso della Valsusa spesso si è riusciti invece ad anticipare anche i grandi appuntamenti, i grandi raduni, con un momento di riflessione. Lo si sta facendo anche in questo caso. Noi ricordiamo l'appuntamento per questo pomeriggio alle ore 17, via Salaria 113, la manifestazione del 25 febbraio sarà discussa in questo appuntamento assembleare a sociologia. Grazie Alessia. Grazie a voi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao.